E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Ma dove siamo? Dove siamo? Cos'è questo posto che io non riconosco? Che io non riconosco. Ma non lo riconosco neanche io, però. Siamo all'Aus, ha riaperto finalmente. Ma dai! Meglio di prima ancora. Ragazzi, una puntata esplosiva, la grande gioventù. Parleremo di questi giovani, della rinascita, come è rinata l'Aus. Adesso beccatevi la sigla che torniamo subito. All'Aus of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, la cena dei regini, bentornati al tavolo della cena dei regini. Questa settimana è stata una serata emozionante per l'Aus, che ha finalmente riaperto. Stiamo facendo gli ultimi ritocchini, giusto per me? E poi ritorneremo a preparare le serate e i vari avvenimenti. Ricordiamo, chi vuole partecipare alla cena può farlo scrivendo a cena@bach.it e proponendosi come ospite per la cena, quindi raccontare la sua esperienza artistica oppure una sua esperienza di vita che vuole condividere con noi. Basta oppure da mangiare, fare come i nostri amici che hanno portato tante cose buone da mangiare, che è meglio e ci fanno un bel po' di compagnia, quasi meglio, quindi adesso è proprio aperto a tutti la cosa, quindi una bella tavolata. Continuano le serate di gioco di ruolo dal vivo che riprenderà presto, quindi questo regolamento potete trovare su ars-rpg.com, semplicissimo, una paginetta e via. Tornare a organizzare queste improvvisazioni teatrali seduti a un tavolo con dei dadi, molto semplice. Molto semplice, però molto appassionante. Certo. Ne discutevamo infatti poco fa. Lars prende, voglio dire, veramente tutti, e poi anche le serate a tema che riprenderanno a breve. Quindi al di là del tavolo, interpretare dal vivo un personaggio. Che è ancora meglio. Vestirsi in maniera strana, avere l'occasione giusta per sfoggiare dei costumi. Non dire così per me, eh? Può essere che lo capi. Suona ambiguo. www.bach.it per seguire tutte le novità e i prossimi eventi. Ragazzi, noi torniamo tra poco dopo un piccolo spazio musicale. E ragazzi, la cena dei regini, bentornati assieme a noi www.back.it per tutti i contatti alla trasmissione, per commentare anche questa trasmissione. E se siete giovani, giovani come il tema di questa trasmissione, dovete assolutamente contattarci e raccontare la vostra grande gioventù. Iniziamo adesso a introdurre l'ospite di questa settimana. L'ospite è un progetto musicale assolutamente nuovo, ci contatta da Pordenone per parlarci di questo progetto. Ospite alla cena questa settimana Lorenzo in arte Loki. Ciao a tutti. Quanto entusiasmo, ciao, Lorenzo, ciao e benvenuto alla cena dei regini. Grazie. Iniziamo a parlare del tuo progetto, come lo descriveresti per chi non lo conosce, e come nasce, e parlaci un po' sinteticamente di te. Ok, il progetto Loki è, diciamo, è il mio progetto solista, e nasce un po' di mesi fa, più o meno all'inizio dell'estate 2013, e dall'idea appunto di cercare di emergere a livello della mia, del mio territorio, ma anche perché no, a livello italiano, con appunto un progetto solista che possa esprimere tutto quello che, dal punto di vista musicale, che ho al mio interno, perché comunque con l'esperienza che ho fatto e che attualmente sto facendo a livello di gruppi, di band, ogni singolo elemento può esprimere qualcosa che ha al suo interno, però non lo può fare come se crea, ecco, un progetto solista. Molto io Loki lo descriverei come, diciamo, un viaggio all'interno della musica reggae e dub dal punto di vista elettronico, e più in particolare lo ritengo, ecco, una forma molto adatta ad esprimere i miei sentimenti, ecco, musicali, sempre a livello musicale. Una tua visione personale della musica, certo. Sì, che ho all'interno appunto di me stesso. Ma prima di continuare diamo un riferimento sul web a chi ci sta ascoltando e sta dicendo: dove trovo cose da ascoltare di Loki? Mi si può trovare sui principali social network, Facebook, Twitter, YouTube, anche SoundCloud, sempre scrivendo Loki Official, okay. Mi raccomando, la I fatta a forma di 1, perché sennò vengono fuori altri... L0K1. Sarebbe sì. Lo spelling, quindi L0 da poco, scritto in lit, come diceva una volta questo. Sì. Diciamo anche, visto appunto che abbiamo magari parlato, abbiamo detto il nome, l'idea di questo nome è venuta sia da me che anche da vari amici con cui suono e condivido appunto le esperienze musicali. Mi hanno detto appunto: magari fai qualcosa che c'entri magari appunto con l'elettronica, ma unisca magari anche il tuo nome, e è venuto a fare questa unione di cose, mix per rimanere in tema elettronico. Perfetto. Il tuo progetto però è all'inizio, blocco di partenza, hai prodotto ancora qualche traccia, un trailer del progetto, quindi giovanissimo. A cosa va incontro un ragazzo giovanissimo che vuole proporre un progetto musicale nuovo oggi? Cosa ti preoccupa del tuo progetto e cosa ti sta incoraggiando invece a continuare? Guarda, secondo me un ragazzo come posso essere anch'io, anche se comunque anche se sono giovanissimo, perché comunque ho 23 anni, 24 un po' di mesi, e va incontro magari a parecchie difficoltà, e anche se, diciamo, per il territorio magari dove mi trovo e per l'esperienza che ho fatto negli ultimi anni e che sicuramente continuerà a fare, il creare un progetto magari da zero è più facile che magari invece crearlo da zero e non avere nessuna esperienza, certo. Dove muovere. Quindi dal punto di vista delle difficoltà non ne vedo tantissime. E dal punto di vista di dopo emergere magari dal punto di vista a livello italiano, quello è un altro discorso, perché comunque quanti rapporti con gente comunque o del tuo livello o più alta, lì veramente hai si sgomita un pochettino, certo. Allora, dicevamo Lorenzo, Loki, la musica elettronica è solitamente considerata fredda, monotona, roba da sabato sera. Agli occhi però di chi la produce, cosa è, cosa rappresenta e cosa ti ha appassionato in questo genere musicale? Ma guarda, fino a un po' di anni fa consideravo anch'io, quando giravo nei locali, nelle feste, musica elettronica, la vedevo sempre con un occhio di... e un occhio di riguardo, dicevo, ma ho studiato tanti anni musica classica, moderna, e vedere dei tranquillamente musicisti che mettevano su della musica così, ho detto, ma non era, sì, non la vedevo benissimo. Dopo, col passare degli anni, comunque capendo i vari ambienti musicali, sia da quello moderno, quello classico, quello elettronico, e ti ha coinvolto, c'era molto da capire e molto da comunque imparare, e mi sono appassionato comunque anche appunto a questo genere, e quindi posso dirti che agli occhi appunto di chi la produce la musica elettronica è un mondo veramente dai mille sfumature. Sì, dalle mille sfumature, dei mille percorsi, perché comunque dalla musica non si finisce mai di imparare, e comunque c'è da prendere comunque in ogni angolo, resto, cioè, diciamo. È un ambiente musicale più articolato di quanto non sembra. Sì, infatti ti dico, in questo mio progetto ci sono questi tipi di musica qua, ma che ho appena detto, appunto reggae dub, ma comunque con dei riferimenti anche a generi che mi hanno comunque coltivato, ecco, fin dalla prima età in cui ho cominciato a suonare. Giovanissimo. E di questa, diciamo, per chiudere la domanda, mi appassiona molto il modo appunto di creare musica elettronica e il fatto che si può cercare di fare qualcosa di diverso, ma anche allo stesso tempo simile alla musica tradizionale, ecco, al suono, ecco, di uno strumento musicale, simulare lo strumento come lo acustico, quello caldo in legno, acero e via dicendo. Ma oltre al web, la musica è anche fatta per arrivare alla gente. Tu come immagini, se dovessi immaginare le persone che ascoltano i tuoi brani, come a quale target pensi di volerti avvicinare, se c'è un target particolare? Non ho ben un'idea, diciamo, particolare del target che può colpire la mia musica. Io la vedo più come una possibilità di prendere la maggior parte possibile, ecco, della popolazione, dal bambino a quello più magari non anziano, ma comunque di una certa età, ecco, dai, certo. Una certa età, perché da come magari la sto pensando io all'interno della mia testa, può essere magari sì, ricondotta con questo tipo di musica a magari una finalità puramente magari di far festa, ballare, ma anche alcune tratte magari come quella che sentiremo magari che sentiremo dopo, più anche da ascolto. Certo. Magari mi immagino la persona magari che è stata occupata o ha lavorato per tutta la giornata e si distende sul divano e ascolta questi, io li chiamo sottofondi musicali, più che veri e propri brani, come possono essere quelli di artisti o band comunque che suonano uno strumento vero e proprio. E quindi sì, io la penso in questo modo qua, su arrivare un po' tardi e cercare la gente, coinvolgere le persone. Ragazzi, sì, questo diciamo, ok, questo era Loki. Ringraziamo per aver partecipato alla cena questa sera. Applausi. Ora ci ascoltiamo un suo pezzo, lo vuoi introdurre prima di chiudere? Il pezzo che andremo ad ascoltare qual è? Questo pezzo che ascolteremo, pezzo, si può definire, come hai detto tu bene prima, un trailer, una forma di... Io l'ho voluto intitolare teaser o anche appunto, sì, appunto perché è solo una piccola anticipazione, una piccola... E un piccolo riassunto, ecco, di quello che Loki vuole esprimere. E ragazzi, assaggiamo questo esperimento, questo progetto musicale, e tra poco torniamo dopo questo spazio musicale voluto in back.it. C'è una goccia di back.it per commentare questa puntata e ci vediamo tra poco. Ragazzi, la cena dei Regini, bentornati, l'angolo delle notizie dalla strada, quelle più curiose e più strane da commentare assieme al tavolo della cena. Iniziamo da una notizia veramente, veramente scioccante. I Google Glass potrebbero non arrivare in Italia. No. Ce lo dice il Codacons, preoccupato dal fatto che comunque hanno questa funzione che potrebbe identificare le persone che incontri. Allora dicono, è incredibilmente pericoloso per la privacy questo riconoscimento facciale, e loro dicono no, vietiamoli. Penso. Mi devo trasferire negli Stati Uniti. Bene, era l'ultima cosa che mi legava all'Italia. Rischiamo di privarci dei Google Glass. Magari anche con sotto un piccolo dossier. Sì, di bleccata. La riconoscenza facciale non è una cosa insita nel cervello umano. Ah, già, in Italia non si usa il distributore di materiale pedopornografico. Va bene. No, no. Che tu becchi una persona e vedi subito contatto Facebook, sito internet, cosa. E quindi è terribile. E quindi in Italia non la vogliono. Ma che c'è di male? Dice Cioè, alla da. fine che però devi cercare gli utenti su Facebook. No. Ma te, poi comunque la persona può comunque dire no, non l'accetto. Punto. Ma per la numero di legge italiana telefono tutti si devono essere scopre riconoscibili, quindi il infatti. Legge italiana vuole ragazzi, più preciso, il Codacons sta opponendo a questa cosa. Dobbiamo fare. Ma il fatto che già sia il Codacons ci invita a ignorare questa cosa, quindi andiamo avanti. Grandi esperienze nella vita, un'esperienza che abbiamo fatto tutto ma solo in sogno, è cadere, la caduta libera dalle nuvole. A chi non è successo? In a chi sogno. Non è successo? In solo in sogno. Non ti è mai successo? Ti potrai rifare adesso. Hanno inventato questa gli americani. Gli americani hanno inventato questo aggeggio che si chiama Oculus Rift. Ah. Praticamente sono degli occhialoni da neve che proiettano direttamente di fronte all'occhio un'immagine in prima persona, e quindi una specie di realtà virtuale della caduta. Zero. E con questi occhiali puoi anche simulare la caduta dal cielo. E quindi vabbè, questa è una figata, in dai. In teoria sarebbero stati fatti principalmente per i giochi erotici. Benvenuti nell'era delle waifu, è vero, è vero. Hanno già un grande risalto nei giochi a sfondo hard, diciamo così. Ho capito. Sì, ma anche immaginati, magari tu a letto, ti metti questi occhialoni. Ma perché? E ti immagini cadere dal cielo. Cioè, ma non hai niente da fare. Non metterti questi occhialoni e cadere. È l'esperienza in brivido, stai cadendo. Ma che brivido? Mia madre che entra in camera e mi mette. Mia madre che entra in camera e mi adesso io faccio. Per credo che è normale. Allora, io so che Oculus Rift lo vendono insieme a un simulatore installabile sul computer dove siete delle montagne russe. Io mi sono immaginato una situazione un po' più diversa, però va bene. Dettagli. Ragazzi, si può fare di tutto, l'importante è l'oggetto che permette comunque così. Però questa qua è una cosa particolare, perché è un'esperienza che puoi vivere solo in sogno, cioè la caduta libera dal cielo, certo, senza ovviamente paracaduti ammenicoli. No, cioè puoi anche vivere normalmente, però poi il destino lo vivi una volta sola. Ragazzi, il tempo che passa a volte è anche un bene. È capitato a questa signora di Salerno che ha ritrovato un libretto bancario con 50 lire. Quindi in un cassettino aperto ho trovato questo libretto bancario. Notizia abbastanza tradizionale, non fosse che era l'anno del 1924. E adesso Banca Italia gli deve 7.000 euro. E beh, quindi delle 50 lire. Un bel guadagno, direi, da 50 lire a questi 7.000 euro guadagnati così, ripescando. Questo, quindi non buttate mai niente, non si sa mai che soprattutto capiti qualcosa. Lire. Giusto oggi sentivo che ci sono alcune pezzi della lira che erano a tiratura limitata, tipo le 50 lire del 76, mi pare, qualcosa del genere, che adesso valgono un sacco, tipo sulle 5, sì, su queste cifre. Ah sì, voglio dire. Poi diventano pezzi da collezione, sì, per il mercato, questo, quindi... perché erano a tiratura limitata, adesso cioè già di 12 anni che siamo nell'euro, quindi... Quanto è che valgono 200 lire? Zero. Aspetta 1000 anni. Sono le 79. Devi aspettare ancora. 79. Ci vorrebbero ancora quella cinquantina d'anni che non ti potrei permettere. Tanto Andrea, ai 30 anni non ci arrivo. La corona norvegese? Te la puoi anche mangiare, non vorrei. Sono bucato. Ma ragazzi, quando il denaro è tanto, a volte succedono cose veramente incredibile, al limite della fantasia. È capitato a questo ai poliziotti che sono entrati nella casa di un discusso boss messicano, re della droga, e hanno trovato veramente scene da film. un po' alla Willy Wonka, diciamo. A parte una meravigliosa pistola con Gesù nel manico inciso in oro, tra l'altro. Come dire? Il sacro. Il sacro e il profano. E poi, ragazzi, una caverna personale che si era scavata nella roccia con saunetta, vari animali esotici. E poi penso il sogno di tutti, soprattutto quelli che hanno visto Wolf of Wall Street, il film di Scorsese, si è fatto il letto di soldi. Ecco. Si era preparato il letto di soldi dove si tuffava. E ci sono queste belle che banconote piazzate lì e un piccolo zio Paperone. Quindi, ragazzi, vediamo anche tra più. Adesso io dico, anche per il salto nel materasso di soldi, o diventi un boss della droga o ti fai l'opera. Gli occhialini, perfetto. Scegliete voi quale delle due è meglio, però veramente notevole, incredibile la cosa non si fa coi soldi. Un boss messicano della droga, una cosa incredibile, ma accade in America, altra cosa incredibile, per un uso sperperante di soldi. Lei si chiama Blondie, non a caso, ed è la sosia esatta di Barbie. Ma lei dice, devo comunque arrivare alla perfezione, quindi farà una seduta di ipnoterapia per diventare stupida. No, guarda, secondo me non la conosco, ma gli do già la patente. La ragazza non è contenta, non è contenta, cioè dice, da un punto di vista fisico, ok, ci siamo, mi sono fatto i miei, però... Penso di essere la portavoce di tutte le donne, ma è la vergogna del genere femminile, cioè... Perché uno dovrebbe farsi questi interventi? Ma uno deve cercare. La verità è perché uno arriva a pensare. Non lo so, ma poi dalla famiglia Kennedy era cosa comune, però va bene. Però lei è incredibile, vuole arrivare a questo traguardo. Ragazzi, ognuno. Non si sa, ma nessuno poi... la ferma, nessuno dice niente. No, ma una persona così, secondo me, non. Ma come mi diventare stupida? Quando è che si pensa a trovare questo dice? Non lo so, accadrà anche questo. A questo punto ci si aspetta tutto. Lo compriamo per 20 euro, dico, noi siamo qua all'out. No. La ferma così. No, no, grazie. No, non serve, non penso serva, grazie. Nei meglio le ragazze con la testa sulle spalle. Sì. Ma detto questo, per una ragazza che vuole comunque, come si dice, instupidirsi, no? Non c'è un termine tecnico. Ce n'è una che ha fatto un gran colpo di intelligenza e anche un colpo d'occhio. Un po' in un quadro di Bosch del 400, lei è andata a scovare un dettaglio. Il quadro è una visione del paradiso e dell'inferno. Lei nel pannello dell'inferno è andata a scovare uno spartito, addirittura come dire, dipinto sul, diciamo, popò di un personaggio, e l'ha trascritto sul computer, ed è venuta una melodia che è anche abbastanza inquietante. Il dipinto è il trittico del giardino delle delizie. Già un nome che già mi esalta, cioè perché non facciamo un trittico delle delizie anche all'altro? Beh, segna Panda, segna delizie. Lei si chiama Amelia, ha visto questo dettaglio e l'ha fatto. Cioè adesso l'ha messo su Twitter. Il trittico delle delizie è anche musica, oltre che arte. Ma tu pensa, da un sedere del 400 a un pezzo, cioè, a un hit grande che va su YouTube. Chiamiamo Loki e vediamo che ci conviene. Ora lo richiamo e vediamo se si può fare qualcosina. Come a dire, un sedere del 400 è meglio di tante. Cioè i tempi suonavano col culo. Avere culo, dai. Ci vuole tanto. Questa è la morale. Ma ragazzi, al concludere c'è una modifica corporea, parlando di, diciamo, zone particolari del corpo, che è ultima frontiera, ultima moda da fare assolutamente. Se tu sei un fissato del piercing, tatuaggio e via dicendo, non ti puoi perdere il sorriso eterno. Così puoi chiedere cos'è? Il sorriso eterno, voglio dire, è farsi bucare questa parte del viso, quindi comunque il sotto il labbro inferiore, in maniera che si vedano sempre i denti. Che bello! Ah, ma tu dici cosa vuoi? Qua. Un buco qua con un dilatatore. In maniera che è più facile prendere la martella che sui denti. Si vedono sempre. Ma io se lo faccio non si vedono i denti. Anche io ho la mosca. No, dai. Cioè, ne ho visti. Perché però... chi gioca a First Aid ha il modo di mirare e di avere 5 punti in più. Non è vero, cosa mi hai detto, ma arriviamo tutti. Non ho capito, ma sarà stata una battuta nerd, quindi è bello assecondarlo. Ragazzi, bisogna farlo, il sorriso è eterno, assolutamente. Panda, quando ti sottoponi a questo intervento? Anche adesso, Panda. Prendete del ghiaccio un coltello, quest'uomo sta per essere operato. È da fare, sì, ma io per sorriso eterno pensavo un'altra cosa. Che non vogliamo sapere. Questa era l'angolo notizie alla strada, commentatela, inviate le vostre notizie alla strada a cena@bac.it e veniteci a trovare. Adesso un piccolo spazio musicale. Ragazzi, la cena dei regini, bentornati all'angolo più seguito dalle casalinghe di Palizzi Marina, che salutiamo. Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi? No, non lo so. Ci scrivono cosa... centinaia. Perché una scritta. Però, però faceva voce però... centinaia. Possiamo continuare? Perché Andrea le conosce personalmente una per una. Ma non dovevamo abbatterlo la scorsa volta? Ciao Concetta! Ciao Maria! Ciao Matuzza! Perché lui, no, vai, lui va a vendere i folletto. Ah, ragazzi, ragazzi, passiamo alla nostra classifica, importantissima. Abbiamo detto una puntata dedicata alla gioventù, i giovani, i giovani. Quali sono i 10 giocattoli più pericolosi della storia? Tutti quelli che vengono dalla Cina. No, dai, poverini, fanno anche la loro cosa. Tanto si sono comprati il marchio Crizzi ai cinesi. Che ti pare? Quindi... portiamo a casa. Tra l'altro, lo andavi chiedendo giusto a quello che ha i capelli bianchi. I giovani dentro. Alla numero 10, Johnny Reb Cannon. Un vero cannone in miniatura che replicava il cannone della guerra di secessione con dei missiletti che riusciva a sparare, ma delle vere palline di metallo che riusciva a sparare anche a 10 metri. E non è bello. Ed era un giocattolo. Immagino, i giovani bambini che ci giocavano tra di loro e... I piccoli rivoluzionari i piccoli rivoluzionari avevano a disposizione un loro cannone per iniziare le piccole rivoluzioni. Non ci sono più i bambini una volta, una volta mi sparavano con i pallini per aspetta ragazzi, nell'edizione deluxe del cannone ti davano anche la ghigliottina. Bello, volevi arrivare anche bello più. Bello, mi piace. Fantastico. Ragazzi, al numero 9, andiamo avanti perché è veramente una classifica molto interessante. La Pogo Ball. Cos'è la Pogo Ball? Era quella classica palla che si usa anche in fisioterapia, quindi questa palla elastica con una piattaforma che era invece per mettere i piedi e saltare, e invece ha slogato parecchie caviglie, è stata alla base di... Io mi ci sono rotto le corna da piccolo, però... Buono! Buono! Ragazzi, ma poco poco, perché tu stai là a fare un po' di poco poco e poi finisce tutto sul corso. È da poco a poco di provare. Ragazzi, andiamo avanti alla numero 8, Battlestar Galactica Missile Launcher, un nome lunghissimo, ecco. Per semplicemente un pupazzino che sparava dei missiletti. E tu dici, dei missili che saranno di gomma piuma, certo. Dei missili che saranno di plastica, no, dei missili veri, di plastica dura, che esploderanno, che sono stati, penso, là, l'incubo di centinaia di genitori americani che erano bersagliati dai ragazzini che usavano il Battlestar Galactica per sparare ai genitori. Già, anche... è schifo come scenografia, poi come giocattoli. E anche qui, se non sei un piccolo rivoluzionario, sei un piccolo serial killer che puoi fare così. Perché l'importante è iniziare, cioè, è dare un input a questi ragazzini, questi giovani, hanno bisogno di una... Comincio a temere per quei poveri genitori. Immagino, stanno parlando a colazione, ti vedo il bambino. Mamma, vieni! Becca di questo! Tanti genitori con un occhio solo. Alla numero 7, ragazzi, una bambola imperdibile, Hello che adesso Kitty. È anche meglio di Hello Kitty, la Cabbage Patch Snack Time Kid. Questa adorabile bambolina dalle guanciotte abbastanza tenere, che era servita con un piccolo completino per farla mangiare, aveva una piccola, come dire, la sua particolarità è che mangiava quello che gli davi. Peccato che non ha mai distinto tra le cose che tu gli davi da mangiare finte e le dita dei ragazzini. La ghigliottina che volevi dare in... dettagli ragazzi. Non è bello. Purtroppo è così. Pensa alla bambola assassina. Shaki e finzione. Questa qua invece mangiava davvero. Tu gli lasciavi un ragazzino e lui se lo mangiava. Bene. così allegramente. Ragazzi, bambole incredibili ce ne sono anche alla numero 6, si chiama Skydancer, ma è stata ribattezzata negli anni la bambola kamikaze, perché questa bambola praticamente ha delle alucce che si aprivano e volava via. Il problema è che è stato veramente grande motivo di arricchimento dei dentisti americani, perché le bambine se le sparavano addosso. Altro che Winx, ma cosa sono le Winx? America. Ma c'era un altro pallerine volanti, si chiamavano, che la versione tirava, quelle volavano in alto, tenere. Cioè, se vedete effettivamente una volta quell'anno ha fatto qua, ha fatto lo nuovo. Abbiamo anche una vittima di queste. Perché sai, ora capisco. Le prossime battaglie si combatteranno solo di ballerine volanti. Di ballerine e queste bambole un po' particolari, diciamo. Poi se è la ragazzina, voglio dire, anche da piccola penso che abbia una sua maniera di essere piccola vendicativa. Quindi certo, gli rubi la merendina, gli fa una cosa e lei ti spara con la bambola. Con la bambola. Perché le femminucce non hanno il Battlestar Galactica messo in lancio. Maschile, ragazzi, la versione maschile. Però andiamo avanti con un giocattolo un po' chimico, diciamo così, che io sinceramente non conoscevo. Gli Aqua Dots è un macchinario che permetteva di creare delle palline che assieme con l'acqua diventavano solide. Il problema è che i bambini le ingerivano e diventavano solide all'interno. E poi mi dovevi anche spiegare il ragazzino. No, non è mai successo nulla. Questi giocattoli non hanno mai ucciso un bambino, altrimenti non però l'hanno non fatto sentire male. Hanno creato, diciamo, dei disagi, perché tu lasci i ragazzi da là e poi lo devi spurgare. Lo lasci lì un pomeriggio, la sera lo spurghi. Ragazzi, ti danno anche, ma soprattutto, come si gioca questa cosa? Cioè, fai le palline, ci metti l'acqua, oh, è diventato solido. Ce lo metti nel cannone al numero 10. Quindi hanno creato sia l'arma che le munizioni. Forse era tipo una casa americana particolarmente vendicativa. Qualcuno che non è riuscito ad avere figli, allora dice: creerò l'astro, versione bastarda, così arriverà. Può essere, ma alla numero 4, un classico, un grande classico. Tutti abbiamo giocato da adulti a freccette, le freccette, quelle là di metallo. Uno sciagurato ha messo in commercio i Lawn Darts. E che cosa sono i Lawn Darts? Esattamente le freccette in metallo, punta metallica, un bersaglio di circa 40 cm che secondo loro i bambini dovevano riuscire a colpire. Ovviamente la mira dei bambini è tutt'altro che infallibile, e si contano 6.100 feriti di Lawn Darts in America. 6.100. Guarda tu che, cioè, hanno fatto le freccette per bambini. Sì, però si sono dimenticati. Uguale a quelle dei grandi. Si sono dimenticati, sai l'ingegnere tipo con l'AutoCAD dei tempi, non è che c'era la cosa. Sì. Cioè, sta cosa facciamola in plastica, no, vabbè, in metallo, vabbè, dai, cambio dopo, mi vado a fare un caffè. Si dimentica, ne producono milioni di Lawn Darts, vanno così sul mercato e il ragazzino mi trafigge il vicino mentre c'è. Ma senti, quello sono i feriti, ma i morti? Nessun morto, però questo è il record di tutte le di tutti questi match. Però il quarto la quarta posizione, aspettavo qualcosa di più. No, bueno. Aspettiamo la prima. Ragazzi, al numero 3, e qua arriviamo alla classifica, le zone calde, quelle che ci fanno sognare veramente. Sì. Innanzitutto, nel frattempo, c'è una chioccioliback.it per scrivere il tuo giocattolo preferito, quello che è stato, il tuo giocattolo proibito, quello che non ti hanno mai regalato. Lo racconto. Le cose. Alla numero 3, geniale, il piccolo laboratorio atomico del dottor Ghiri. No. Atomico. Ragazzi, il piccolo atomico. C'è un piccolo grammo di uranio. No, una vera e propria. La possibilità di dividere un atomo. Precisiamo, non è il piccolo chimico, è il piccolo laboratorio atomico di Hilbert, che crea una vera e propria mini centrale nucleare. Relativa fusione. No, imparava ai ragazzini a sfruttare al massimo le proprietà dell'uranio, che era in minima parte contenuto nel giocattolo. Davvero? Io l'ho detto scherzando. No, è vero. Quindi praticamente questi si facevano l'energia da soli e noi non lo sapevamo. Sempre indietro, c'è sempre indietro. Allenavano i ragazzini alle radiazioni. Così da grandi non ne soffrivano più. Bella. Ma questo è in Iran, dov'era? America. Il laboratorio del dottor Gilbert, voglio il dottor Gilbert, con questa illustre scienza. Bello, sì. Sempre Gilbert. Salutiamo Gilbert dalla sua lontana California. Ragazzi, al secondo posto, perché bisogna istruire questi giovani. C'è di peggio del piccolo Gilbert, del piccolo. Okay. Panda, se tu gli regali, che ne so, un puzzle, cioè che lo monti e basta, è da grande che fai il montatore di puzzle. No. Vero. Ma se tu gli regali alla numero 2 il kit per soffiare il vetro con fornace che raggiunge 500 gradi. No, aspetta, davvero. Anche la fornace. Sì, anche la fornacetta che raggiunge 500 gradi e permette ai ragazzini di soffiarsi. Un kit per soffiare il vetro raggiunge 500 gradi e permette al ragazzino di creare le sue strutture. E io fino a chi la mano. Non so, ma si perde la mano. Non ci sono scritti qua, non ci i dati, ma siamo belli distribuiti. Ragazzi, potendo. Siete pronti al numero 1? Ma cosa sarà, Panda? Cosa sarà? Ora come ora non so che aspettarmi. Io mi aspetto un qualcosa. La piccola bomba atomica di Marco. Io mi aspetto un qualcosa alla Peppa Pig, però vabbè. Va bene. Metal Casting Set. Cosa permette? Secondo un tizio americano, era giusto dare la possibilità ai ragazzi di creare i soldatini in piombo in casa, e quindi ha confezionato questa fornace per la fusione del piombo. Ancora peggio di quello del vetro. Quindi tu c'avevi i ragazzini in salotto che respirava tutti i fumi del piombo mentre lo fa. Guarda mamma. Guarda mamma, un tumore al polmone a forma di soldatino. Amore, ma perché sputi nero? Mamma. Questa è la numero uno per due motivi. Innanzitutto l'idea di dare una fornace a un ragazzino che tra l'altro il piombo fonde a 300 gradi, quindi anche una fornace a un certo livello. Certo. Ma io dico, pensare che un ragazzino si faccia i soldatini di piombo a casa, cioè che si metta là con le formine, col piombo a farsi... Sei un pazzo, cioè sei peggio del dottor Gilbert. Sei il dottor Gilbert a cui non hanno dato la dose di uranio. Ma per questa ragione sono i genitori che le vanno a comprare. Ma poi ti rendi conto? Cioè, no, tutti ti fondi. Ci sono genitori che sono andati a negozio, hanno comprato la serie, come si chiama? Metal Casting Set. Gli hanno portato dentro c'era uranio e gli hanno dato e detto: tieni bello, gioca. Ragazzi, si capisce. Tutti i tumori che bisogna prendere nella nostra vita. A forma di. Un bel braccio che usciva. Io comunque mi sarei aspettato. Anche. Non è così, ma così. Ragazzi. Mi sarei aspettato anche la Condor. La Condor, mamma la Condor! Ecco, mamma la Condor! Allora, quanti di voi si sono beccati dei piombini, cioè dei pallini dietro il ginocchio? Ma tu non eri con il chiodo dentro? Ma ragazzi, una cosa è una pistola a pallini, una cosa è un giocattolo che ti dà una fornata di 300 gradi. No, aspetta, la Condor. Aspetta, la Condor, Panda. Non c'entra niente l'uranio con la Condor. La Condor aveva questa grandezza di pallini, cioè. Tanti! Così. Io con la mia Condor ho sparato a mia sorella maggiore da una distanza così. Quanta bestia! Bravo! Non si è mossa dal letto per un mese. No. Ero piccolo, ma non si è mossa dal letto. Sta picchiando, spero. A mio fratello l'hanno regalato quando aveva tipo 7-8 anni. La prima cosa che ha fatto è caricare il pallino, chiuderla e spararmi. Mi ha beccato qua. Sono stato fortunato. Sono stato fortunato perché potevo essere senza un occhio. Forse era più bello, non lo so. Mi ha beccato qua. Mio padre gliel'ha presa e non gliel'ha tornata più. Il giocattolo gli è durato meno nella sua vita, tipo 2 secondi, 3 secondi, qualcosa così. Volevi raccontare questa? Allora, eravamo a Roma, eravamo saliti in occasione del Romix, fiera dei fumetti e quant'altro. E, visto che io non avevo avuto questa fantasia di creare cosplay e quant'altro, ho detto va bene, mi porto la divisa da software, il cugino in braccio, mi faccio la pittura, faccio la Body Call Beauty e faccio subito la fiera. Un giorno un nostro amico ha avuto la fantasia di svegliarci la mattina lanciandoci merendine. Questo qui di Catanzaro apre la porta, entra la luce, prende le merendine e fa: buongiorno pisciatore in meta! E inizia a fare. Allora, visto che io allora, visto che la mia sanità mentale era quella che era ai tempi, ho dormito con il fucile a cacco. Prendo il fucile, tipo al momento, praticamente inizio a spararlo e vabbè. E quindi è nato questo rapporto d'amicizia dove ogni volta che vedo questo ragazzo devo spararlo. Ah, perché non ti stai il fucile? Cos'è successo? Dove c'è questa fiera? Tra come si chiamano? Tra un padiglione e l'altro c'erano tipo dei ponti, quelli dei miei superiori. Io cammino questo ponte e mi affaccio dove c'era l'area dove organizzavano tipo tornei con spade in lattice. Lui mi vede e fa: Saverio, spara queste! No! Con il fucile ho detto va bene, facciamo così. Io punto la testa, con la distanza il pallino scenderà al petto e lo prendo al petto. Non avevo calcolato che stavo sparando dall'alto verso il basso. Lasciate stare questa. Sono arrivato a sparare. Ma non si nasceva la giornata. E poi? Peccato in peccato in pronto. Peccato in pronto. Il mio amico ha fatto questo. Io poi metto i capelli, mi tiro quello forse nell'occhio. Ma tipo se si deve questo amico senza i capelli, io. Oh capo, sto mettendo l'occhio. Il pallino gli ha fatto, il classico. Ah sì, quello che era un SVD Launo della Cybergun a 2.1 Joule. Non capiremo, però va bene, no. Parte amici a casa. Allora, mi lascio prendere. Avete presente il classico vulcanetto che resta dove ti schiacci il bucolo? In mezzo alle sopracciglia. Ultima precisione assurda. Grande ragazzi, giocattoli. Dove c'è il tiro, appunto, la telecamera gli faccio. Dai, saluta la telecamera, che sono le camere di mostrare. Ragazzi, giocattoli pericolosi, persone pericolose con giocattoli in piano è sempre un via vai di situazioni, ma adesso un piccolo spazio musicale e poi torniamo tra pochissimi. Off the roof, off the high. E ragazzi, questa era la cena dei regini, anche questa settimana ci è andata alla grande, un ritorno all'Aus, davvero spettacolare, spettacolarissimo, bellissimo, voi continuate a seguirci anche in questa settimana, veniteci a trovare anche all'Aus adesso che riapre, voglio dire, c'è anche questa possibilità, www.tipac.it per vedere tutte le iniziative che organizzo e che accadono qua all'Aus, c'è veramente di tutto. Ci vediamo settimana prossima, giovedì su Radio Popolare, in fine settimana su YouTube. Un saluto dal Bac e dai ragazzi della cena dei regini. Ciao! Perché noi siamo giovani, siamo giovanissimi. Ciao!